morti? Tutti morti, Cibillotti? E beh, Cibillotti non ce ne sono luce fra questa. Cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, cicu. E beh, ci vogliamo svegliare, sì o no? Bubu. E se vedete bene che muto in un BMR. Ma chi c'ho? Canta, canta, canta. Ehi, signor Bacchi. Buonasera a me. Ehi, anche a lui. Ho chiamato poco fa. Così, all'etardo. È al PMR, sono. Chi ha parlato sopra? Sono al PMR, io sono di nuovo invece. Nel PMR, sì. Ho detto che sono nel PMR loro. Bene, preso. Ce l'ho giù, non l'ho portato su. Sì, è meglio così. Chi c'è il PMR? Giulio e Gian Maria e Graziano, così è? No, Luca e Giulio. Poi allora, sono ping e pongo. Allora, signor Bacchi. Vedo, sei uscito in bicicletta oggi, è una bella giornata. Stamattina sono uscito. Sono uscito stamattina, ma io pattugliero. No, al centro e poi sono rientrato. Ho capito, hai girato al centro. Andava bene a me da... signor Figaro, che fine ha fatto? Non lo so. Spesso ieri, quando sono andato a ritirarmi delle medicine in farmacia, era davanti alla cosa, al magazzino, insieme al, mi sembra che era Luca della Teroce. Era lui, non mi sono potuto fermare perché c'erano macchine dietro, se mi dovevo fermare. Ah, sai che qualcosa, il PMR posso solo ascoltare ma trasmettere no, come funziona il microfono? È il tuo? Ehi, no, il Ficiu, sta di lui il barono, boh. La capo se non è partita. Non si capita che c'è un paese, sta su così. Quando mi ha preso la Gian Maria? Se ne è andato e arrivederci. Ma ti avevo chiesto, quello che ha preso la Gian Maria, quello lì è? No, ma forse già ce l'ho una capsula di quelle lì, la devo guardare a vedere, forse già ce l'ho. Rapito, rapito, no, la metterò in operazione. Ma quello del microfono è piccolino, dove si mette la capsula piccolina? Di quelle piccoline, ne ha giocata da un po', ne ha giocata, se buon cuchiscia. E non è una regalata di Maria, ce l'ho io. No, non ti preoccupare, ti ammarrangio, Bacchi. L'arancio è molto, l'arancio una volta esistia, c'era il coso, c'era la barbiera in via Pietro Micca, e c'era l'arancio. Forse così fosse. Niente, ha fatto di bene, la domenica m'arrangio. Già la provo a vedere, se no figlio è Ruggiambo. Si può trovare il microfono completo, raggio completo. Microfono nuovo, completo. No, non sarà. Basta, non è per nubio di un'altra cosa. Non l'unica cosa che faccio è... ci metto l'altro e boh. A prendere quattrini non ne vale più la pena, non ne vale più, non c'è più nessuno. Non chiacchiera più nessuno. Infatti lo tengo così. Un altro ce l'ho e boh. Vado però quello. C'è il piccolino, no? Quello funziona. No, il coso, l'altro, quello che avevo preso da Gian Maria, quello lì uso. Quello che non funziona. Che quello già funziona bene, ci vuole il burro. Quello c'ha 10 watt. Invece quello che... che come il mio sono 5 watt, ma quello da 10 ci avevi tu. E infatti. E guarda di mettere a posto il coso. Oh, se voglio ci posso attaccare anche i... come ti si chiama? Ascolta, ti va bene. Ho il microfono da tavolo lì. Ho ma è attacco a coso, attacco al telefono. Ehi, avevo fatto l'affare, avevo fatto con l'attacco a spinotto. Hai fatto la modifica tu? Ehi, io ho fatto la modifica, il cavetto gli avevo fatto. Non vedere che un microfono pregiudicato oppure il normale. E infatti. Quindi, e poi, come se ho tempo glielo controllo. Sì, ahi, controlla, torre, controlla. Perché con lì danno 10 watt, o 20 watt c'erano quello lì. Boh, non lo so. Io l'ho messo al massimo, l'ho messo, saranno 10 watt, 5 watt, boh. No, 5 non esiste, 10 o 20. Comunque già ce l'ho un altro coso, una capsulina piccolina già ce l'ho. Uso quella di quell'altro. Quell'altro coso che c'ho. No. Stavo dicendo, c'è quello dell'Inter che invece non ha mollato nulla. Che l'avevo tolto da quel microfono, da quell'apparato marino, l'avevo tolto che non serve. L'ho tolto da quella lì e gli metto quella, gli metto. Perfetto, è quello. Perciò sto pensando di adattarci il microfono del coso. Dell'Inter, che pensavo che quel bubone non è adatto di nulla. Poi penso che sia che siano 500 ohm in quello lì, no. Sono piccolini. Io ce l'ho con l'antina, aspetta un po' quanti ohm sono. Perché quello che si è sfasciato ha fatto un autocollante da dentro. Allora. Pensa un po', tanto c'è il microfono e l'autoparlante dentro. Sì, il microfono e l'autoparlante, nell'autoparlante c'è scritto 8, 2 watt. Aspetta, speriamo, sia così. Sì, domani se c'è un minuto di tempo lo apro e abbaio. Fagli l'operazione, to, subito, a sangue freddo. Ehi, andavi, aspetta. Sì, andavi, tutto bene. E Marino, sentito voi? No, non l'ho più sentito dal giorno. La giuvito giuro e basta. Scusa, come tempo, non lo vuoi che ne intendo. Squilla il telefono e non ti risponde. Vuol dire, o è travagliando ancora? A me mi sembra sia femminuccia quella, non rispondo per quello. Non lo so cosa sia. Audo, a che cinesina, Ivi? Non so altro. Ma chi? Questa volta sono, più di una settimana, sei di più. Di più. Sento male, ben sentirlo. Infatti l'altro mezzo, quant'è? Io sembra che ho chiamato. A mezzogiorno ho squillato il telefono fino a morte e non risponde. Aspetta Bacchi, un attimino. Giulio, se mi ascolti sulla 27, non posso entrare in PMR. Bacchisio! Giulio! Buonasera. Giulio! Ciao Tore, ciao Bacchi, siamo in PMR. Ma non posso entrare io, c'ho la capsula del microfono che non funziona. Giù. E che sei più o meno con Marino? Sono con Luca del Monte e con Benito anche. Benito solo, peccato non lo sento, mi dispiace. Benito non lo sente, ce l'ho giù. Tore, ce l'hai tu PMR? No, non ne metto altro, lascio quello, ascolto solo il blu. Capito? Capito. Il cronobase l'avevo tolto e bisogna che lo sappia mettere in funzione. Già mi toccava un macello, mi toccava staccarne tutto, attaccare, fa staccarne e mettere quell'altro coso e attaccare. attaccare il portatile, ma non ha giù ad attaccare nulla. No, ho capito, mi permette di il raccordo, cioè sta che non tengo. Capito Giulio, avanti. Vatti, sì. Ah, non ha gara d'ora, una stasera mandrolendi, non ha voglia di attaccare il PMR. Mi dispiace che non riesco a sentire benissimo, perché sono qualche annetto senza sentirlo. E oggi che è entrato in PMR, è peccato che non arriva qua da me. Arriva poco, però non capisco quello che dice, peccato. Come sta parlando Benito? Non so dove. Non c'è più, dice che non abita più dove era prima. Dove abitava prima dice che non abita più lì. Ah, lo più. Allora è fuori Sassari. E poi Sassari lui. Ma lo so, ma forse lì è nella zona d'arte dolce. Mi è sembrato di capire così. Dalle parti di Gian Maria mi è sembrato di capire. Boh, perlomeno come stava parlando Luca, mi è sembrato di capire che era dalle parti di Gian Maria. Boh. Dove però riceve, se non può trasmettere, solo non può trasmettere. Ma riceve, Tore, se l'hai sentito tu, dove? No, non stavo ascoltando io poco fa, non c'ero quando è entrato lui. Ho capito. Vabbè, strano, non lo so, evidentemente è in una zona un pochino critica ed è per quello che non riesco a sentirlo. E tu non c'hai la stazione fissa lì? Cosa hai detto, Bacchi? Aspetta, non hai la stazione fissa del PMR? No, l'altro è mio io, l'altro è mio suo. Vai, mi devo sedere al centro qua, io sono seduto al centro del letto. Perché se mi sposto poco poi riesco male, capito? Invece da quella posizione sento quasi tutti e mi sentono quasi tutti. Però ovviamente se c'è qualche interlocutore che è un pochino in una posizione critica non riusciamo a conversare. Ma un antenino già te lo puoi costruire già. No, non ce n'è bisogno, io cosa. Se per cosa ce l'avrei anche, ma basta staccarlo dal ricevitore, penso che vada bene lo stesso, ma quello non tocco, ma non lo metto mai, non è necessario, guarda, io ho l'antenino suo originale di questo portatilino e riesco, pensa che mi sento molto lontano, mi hanno sentito in estate, mi hanno sentito anche in Corsica, mi aveva sentito stando di Portotone, ti puoi immaginare, però lui era nella punta più alta della Corsica. Vabbè, non vuol dire. Vuol dire che lui è un apparato, cos'è? Un Baufeng, che lui dice il vasto del Baufeng. Quello Baufeng, sì, Baufeng, come si chiama? Baufeng, sì. Dove è il fratello del mio? Io ce l'ho così 5 watt. Ok, ho capito. Vabbè. Ho apparecchiato. Prima ce n'avevo uno, costava, avevo pagato, non mi ricordo, mi sembra che era, però cosa altro è venuto una sessantina di euro, cosa del genere. Questo invece adesso l'avevo poi dato, l'avevo, e non l'avevo ricomprato, costa 35 o 25, non mi ricordo più, no? C'ho meno dei 5, me l'aveva portato mio cugino da continente. Siccome vicino a dove abita lui c'è un negozio di elettronica e in più c'è un tipo che ripara le radio e roba varia. E mi ha preso lui lì, questo Baufeng, 5 watt, ma funziona bene. Sì, funzionava benissimo, cosa sto dicendo? Io ad esempio quest'estate quando c'era Sandro anche a Sentino, lo sentivo benissimo, tranquillamente, no? Non c'erano problemi. Da Porto Torre se lo sento benissimo. Una volta era in barca facendosi una passeggiata in barca in mare ed era vicino a Castelsardo con la barca, lo sentivo benissimo. Poi era vicino ad Asinara e lo sentivo benissimo. Sempre, guarda, no, e ripeto. Mi ha sentito in Corsica, si può immaginare, vuol dire che la cosa, vabbè, sarà stata propagazione, non lo so, perché eravamo in estate, eravamo, e lui si trovava lì per lavoro, si trovava in macchina, ed era nella punta più alta della Corsica. E per qualche passaggio ci siamo sentiti, poi ha incominciato a scendere lui, allora non ci siamo più sentiti. Lui era una pulsazione buona, dunque ascoltava e tu riusciva a arrivarci, poi no. avanti sole, della tua. Ehi, giù, io posso solo ascoltare per il momento e col microfono che non funziona. Hai compreso? Mi sono accorto stasera che non sia. Purtroppo per il momento esco con questo. Domani lo metto a posto e guardo. Fai bene, adesso. Ma se hai il portatile, perché non puoi parlare direttamente dal portatile, adesso? O qualche tipo di apparecchiatura che ha il microfono esterno? Con il portatile non esce da dove sono io. Mi metto a parlare ma non mi ascolta nessuno perché sono troppo basso qua. Ah, ho capito, vabbè, è sempre una questione di posizione. Io sono seduto in una zona notte, no? E sono seduto al centro del letto. Se mi sposto da una parte o dall'altra del letto, mi comincio a sentire tutto quanto con QRM e Valdevari. Invece mi metto al centro, ormai io conosco il punto, conosco. Forse perché al centro poi c'è il lampadario, forse mi farà l'antenna al lampadario, che cosa ne so, Forse è quello che ti fa l'antenna al lampadario, ti fa. Arrivi fortissimo, arrivi. Io ci stavo, ascolto a tutti con il coso, però non esci, deve essere, se ne è andata la capsula. Ho interrotto qualche cosa. Andami, domani me la paglio, ci faccio un minuto di tempo. Fai bene. Prima di entrare in PNR avevo fatto chiamata io, ma non c'era nessuno. Non c'era. E allora ho acceso il PNR e ho sentito che c'era Gian Maria e Luca. Poi Gian Maria l'hanno chiamato e ha dovuto abbandonare e non si è più sentito. Perché sennò devo staccarne il capo d'antenna da dietro, attaccare il pezzo, o poi staccare l'antenna, o no, mi sono buttato a tenere a questa cosa. Vabbè, quello sì, d'accordo. Io stasera ero fuori, sono andato a comprare il materiale, per cui sono rientrato un pochino tardi, ma appena che sono rientrato sono salito su e ho acceso la stazione, ho chiamato ma non c'era nessuno. Se poi da presto c'era qualcuno non lo so, questo non te lo so dire, perché ripeto, io sono arrivato tardi stasera. Va bene, avanti Battisti. Sì, Antonio, lo sentiamo subito. Antonio, portaci in tuo, io lo chiedo al microfono mio. Cos'è Bacchì? Non ho capito, no, perché mi sono allontanato, mi ha giubilato Russo a Rugano. Sento, se vuoi di modulare, ti do il microfono mio adesso, quello mi porta 100 euro. Piazza, tu, va, sei esagerendo. Ma qua domani me lo guardo a vedere cosa c'ha. E poi ti faccio vedere che vuoi dire su un altro microfono. Non con i tasti, ma con un altro microfono. Per risparmiare tempo e denaro, mi dai 100 euro e te lo porto adesso io il microfono. Te lo tolgo dall'apparato mio e lo porto al tuo, tanto sono uguali. Non va bene giù. Va bene, sì, capita, perché se va bene. Se che adesso lo sai, con 100 euro tu hai di nuovo il microfono originale. Per cui, vedi un po' tu. Magari questa la metà era il coso, il portatilino. Ma ti faccio sentire, domani ti faccio sentire il microfono di cosa, di un altro apparato attaccato lì. Allora, Iaia, andiamo già. Fate una cosa, fatevi la modifica che vi mettete il microfono amplificato nel baracchino, così quello dura di più. Infatti, voi modulare stasera, io vi porto il microfono, lo stacco dal mio, glielo porto, qui a 100 euro e siamo in pace, non stiamo io a discutere. No, fa una cosa, rimane in TV, dice che è meglio. Rimani lì, rimani. Se vengo a piedi anche mi tocco. No, lascia stare, io lo so che tu puoi camminare, ma io non ti posso camminare, ti posso riposare a gira. Sei giù, l'ante legna verde, che non si chiama Pino, se c'è un ghescia guai. No, è pagliissimo, lo so che tu puoi camminare, bene. Ma io non ti posso camminare a gira, ti posso riposare. Ma chi stasera vuole fare la palizza? cavolo, l'idea è buona, con 100 euro tu risolvi il problema del portatile e lui si fa anche la passeggiata, perciò sono due cose a uno. Sì, ma non negoziare l'apparato è 2 euro. E non è servito con 130 euro. Perciò è andato. Vabbè, andà. Vediamo se c'è Marino d'accordo. Un altro mio, è mi tagli su di vitale. Marino, ci sì. Non vedo un bacchino. Sono andato a campanello, un bacchino. A Marino. Sono andato a campanello di casa. Feo è diventato, Giulio. Cosa è diventato? Feo. Non rispondi più. È incredibile, ragazzi. Vabbè. Non ha più gara, no. Fra qua è un giovane, con questa. Se ne pensa anche se non lo sa, ma andate a lavorare. Dunque, ha bisogno di strumenti. Fra qua, vai, strumenti. Trovagli in casa, io la vedi trovagli in casa sua, dunque. Stasera, quando esce a lavorare, se non fate lì, c'è poche cose in casa. Poi, specialmente in campagna, c'è sempre da fare. In campagna non manca mai la buona fare. È così e tu, è Marino di buona volontà, mi è travagliatori e un mese. Mi spedi tu. Anna che l'ho trovato, mi pare venna era giubisù. Era abusato in camion, era abusato. Se me la c'è che era venire la plastica. Che muro. Che voi c'era giubisù battendo il buco io, il monte, in Chivi. Infatti non è sempre chi fa loro la plastica, alle volte magari fate la zona, fate, no? Perché, ma l'ha già visto comunque, è il buco, attaccato allo gavio, prende un bicchino morello. Infatti, ma però era di pomeriggio, Ah, così è, il pomeriggio è, cazzo, cioè, allora vai Trumendi, vai tra qua e Trumendi, batti. Sì, magari è andato a fare la partitella con i buldi al campetto e sta contentando il nipote, tutta la vita, un nonno, vabbè, dunque approfitta la cena il ragazzo. E allora, all'inizio il bicino è, tu vuoi fare diventare giocatore, tu vuoi fare diventare, oh, fate bene, si diventa giocatore, ha risolto il problema della vita. Sicuramente. Ma se uno travaglia, mo te che venire là. Purtroppo è di così. Allora, ero dicendo del video, ecco la tagliata a me. Ronaldo, giocatore della Juventus. Festeggiando un compleanno o la vetta o lo vatte con cosa è della vigliura, ha stappato una bottiglia che costa 31.000 euro, bella bocca a bubattare. Sì, che sono 50 euro andava, ma 3.000 euro, vabbè, chiedo in casa un po' di più. 31.000, non 3.000, no, 31.000, una cosa impressionante, boh, dimmi tu. Ma si può parlare una pura di champagne, cosa è, o di vino, quello che è il video che scritto qui, 31.000 euro. Champagne, lo spumante, no, champagne. Due diamanti e il rinoso ha un valore di 2 milioni. Non è possibile, non c'è differenza tra persone nella vita che avevo. Va bene che piglia 30 milioni all'anno di stipendio, vedo. Però ok, non si può, non è possibile che ci debba essere tutta questa differenza tra uomini. 2 milioni, un brillante da 2 milioni, in un rosso, o pieno di brillantini, non so, comunque un rosso di questo, hai 2 milioni. E chi doveva essere 6 milioni, doveva lampare, era un comodo, era un dono, non mi piaceva più stare lampando. Hai detto, ci avevi dato a me, hai lasciato qua correndo. Ehi, Albiria, non è possibile che si butti a te, così anche butti. Sì, capisco, è anche generoso, dice che fa molto, molto coso, con beneficenza, tutto quanto per voi, ma mi guadagna troppo di denaro, a parate mi guadagna i clienti. È la carriera lì, un po' con gli artisti così chiamati, gli artisti ballivi, da Barbara Duccio in televisione, lamentandosi che pigliavano i 500 euro di pensione, tipo da Barbara Buscevo, cosa accidente si chiama, da voi venivano variati, il nome non lo so, come la un'altra pigliava 2.000 euro di pensione, e c'era la mentende che pigliava poco, vedo. Cosa vuol dire tra Magliadoni che devi pigliare 400 euro? A te ne immagini, editore? E allora, hanno visto la cottura dei 100, cosa avvasi? Tu hai 62 anni, arrivi che ti fai le cose di pensione, vai a chiedere quanto prendi, ho. La pensione dovrebbe essere quanto la paga, 1200-1300 euro. Le cose che ti viene calcolata da voi con che cosa arrivi anche su cosa ti arrivi che 900 euro di pensione addirittura. Certo. Allora se che aumentate abbassa il burro non è possibile, la politica è la bestia nera dell'umanità, non è possibile, non c'è rimedio, non c'è rimedio per le povere persone, per la gente che lavora con le braccia, non va di meglio, invece che hanno fatto niente la vita per gli ambasciatori, Sì, ma forse Salvini non ha compreso nulla, i travaglienti in gioco, se non arrivi alla pensione alla massima non mennando, già che piglio 1300 euro, 1400 euro, travaglienti ne prenderò molto di più e me ne vado, ma non saranno, arrivo sino alla fine, quando mi viene l'ora me ne vado. Beh certo, d'altronde è così, cosa vuoi fare? Quante differenze nella vita, incredibile. Vabbè dai, è inutile pensare, ma che tanto se vengo di sangue male, mai si vecchiani e mai si annucchiani, tutti canti bari. Avanti, bacchi. Il povero è sempre buono, non ricco è sempre ricco, però sono da che fa. Bene, signori, io vi ringrazio delle quattro chiacchiere, vediamo un po' la giosso. Vi ringrazio delle quattro chiacchiere, vi auguro ancora buon questo e Bacchisio va in QRT causa trasferimento giù, medicina e via dicendo. Bene, ascolto il finale, Bacchisio poi passa in QRT, riprenditore. Ehi, ciao Bacchi, ci sentiamo domani. Si anda, se no pazienza. Va benissimo, riprendi giù. Ok, ciao Bacchi. Grazie per la chiacchierata, dai, ci sentiamo domani, così almeno scambiamo ancora due chiacchiere e speriamo che entrino anche altre persone. Infatti sono diventati tutti uno più mandrone dell'altro. Vabbè, pazienza, dai, ciao di nuovo, Bacchi, a domani. E così è tutto, d'altronde cosa ci vuoi fare? La vita è così, ma io l'ho sempre detto, tra politica e religione sale massacrato, a chi è così, non è, a chi pura di sabbatti venne un bel sfruttamento. Quello sì, ma cioè io penso che i signori Salvini e Di Maio se non ne negavano questa cosa, lasciano come era prima, non ci va nessuno tanto in pensione così, con questa cosa qua di 100, perché è una grande truffa, ecco cosa è, e uno pensa che fosse anche Anna, prima che va a chiedere all'Inps, dice a vedere com'è questa cosa, e gli dove dici quanto prendi, 1200, 1300, e ti viene abbassata a 900 euro, 800 euro, una cosa del genere, ma Rihanna è meglio che non passi a questa cosa. Ma non credo che faccia una cosa del genere, comunque staremo a vedere, siamo vigili e vediamo un po' che cosa succede, ma io ormai non metto di bissare né ai 62 anni né ai 38 anni, ormai la mia è stabilita perché per quello che ho versato e dunque va bene così. per i giovani purtroppo è così, guarda, è critica, è la situazione è molto critica. In belle mani siamo, non è possibile so. Purtroppo è così. A me a Buru è fissata così e così me ne andrò. Anzi, a gennaio ci sarà un piccolo aumento e mi sale appena appena di più. Chi se ne frega? Allora io ve la giuia e non mi preoccupeggio. Ah beh certo, quello sì. L'aumento ISAT, l'aggiornamento ISAT, beh, tutti gli anni c'è sempre l'aggiornamento ISAT, ma quello lì c'è una miseria. Già se la abbiglia niente la pensione buona, vai, già se la abbiglia niente, capita. Il paese è buono, e se sono fatica tu, è bastata una legislatura, si incanni. Qualche volta non mi sono mancati via di disincarne che ne è caduto il governo e la pensione della livella sostanziosa è sontuosa, ma ne detti è vero, è il popolo sempre più povero, l'unico sempre più ricco, il popolo sempre più povero, incredibile. Sì, ma penso già vi pensa, cosa vi pensa? Di Maio all'Ampannira, questa cosa, la pensione alta. Che con quei soldi vuole pagare 780 euro. Dai, e che fai che Lucia? Ah, già fatto avemmo, è vero, è così, basta. Vabbè dai, io mi sono Ciamendi e vi saluto, ci sentiamo domani. Belli e brutti, ok. Ciao Giulio, ciao Luca e ci sentiamo. Ok, ciao a tutti, a domani dai, ci sentiamo. Alle prossime, grazie per la chiacchieratina, a domani, ciao. Avanti Luca, e anch'io fra un po' dovrò scendere giù. Sì, ciao Toro, dai, buona cena, alla prossima, ciao. Sono Giulio, Mariana sta preparando la cena. A breve, pochi minuti andiamo a mangiare, dai. Sì, era anch'io qua, ancora qualche minuto, dopodiché riceverò la chiamata o tramite voce da giù o tramite squillo di telefono. È così si scende a cenare. E anche per stanotte ci troviamo, va. E domani si vedrà. Sì, ma leggero stanotte, Giulio. Leggero, ma mi pare un po' che più pare di pancetta, cosa ne so. Leggero, la pancetta, che ziri. La pancetta? Chi è mangia pancetta? Tu? La pancetta, non ti piace la pancetta? Sì, che mi basta che se gli va giù la pancetta. Sì, che mi piace, arrosto sì. No, mi si abbassano, la sabbaglia si abbassa il forno. È buona, cazzo. L'ho mangiata anche a pranzo, preso un po', ma siccome ne è avanzata, e allora stanotte sicuramente la bo in forno, la bo e continua a cucinare lo che è avanzato. Vabbè, comunque, poi pasta al pesto, comunque sicuramente, quella stanotte già lo so, pasta al pesto. No, non mi dice niente, ma non mi attira la pesca, no. L'ho mangiata però non è il mio piatto preferito. Vabbè, però ci sono cose molto più buone, certo, ma già la mangio volentieri io, no, problemi non c'è solo. Poi adesso sono da molto che sto mangiando, ma stanotte so che la stavo preparando, per cui la mangio volentieri. Una spaghettata al pesto e poi pancetta in forno. Va bene, buona dai. Se è bella quella, se è troppo grassa già va bene. Certo, e poi ci mangiamo un cacchimela e ciccia. Sono belli maturi, belli buoni, mi piacciono molto. Mi piacciono più dei cacchi normali, quelli che si sciolgono praticamente. No, questi i cacchi mela sono migliori, secondo me. A me piacciono di più, quando vengono. Poi ognuno ha i suoi gusti. Sì, sono maturi, sì. Oggi l'ho mangiato a pranzo, era buonissimo, dolce. Sì, ma certo, ma tu mi ha detto, no, perché ti quello, no, non erano, anche se sono, oh, diciamo, come dire, caldosi, da mangiare, cazzo, sono un bel buono, perché non è come te dico, che sono tutto gatto di... Vengono bucciarino secondo come di qualche battuto, i cacchi normali, no? Vengono bucciarino per mangiarlo. E invece il cacchi mela, fai affetta, col coltello, e la buoi le mangi tranquillamente. Forse ci abbiamo parlato in due, stavo dicendo, prova, ma cosa stavo dicendo, non me lo ricordo più. Vabbè. Ah, ho detto che a pranzo ho mangiato il riso, capito? Domani brodo e poi venerdì a pranzo gnocchi con sugo piccante. Buoni, buonissimi. Sono buoni, gli gnocchi sono buoni. Mentre invece non mi piacciono, cioè li mangiano sempre, i gnocchi di patate, quelli non mi piacciono molto, quelli li mangiano volentieri a casa, ma anche io li mangio, però non mi dicono niente, la verità. Infatti adesso è da un po' di tempo che sto preparando, ma ogni tanto a loro mi viene la voglia e allora mia moglie li prepara, i gnocchi di patate. Boh. A me non mi piace assai, la verità, li mangio, ma perché io mangio tutto, non ce ne sono cose che non mangio, però ci sono cose che mi piacciono proprio molto molto, mi piacciono le altre cose che non piacciono così tanto, però siccome piacciono a loro è giusto che mi facciano così, non è buona quantità solo a meno. Diciamo che non ne vado matto, però già li mangio volentieri, dai, già sono buoni. Beh certo, ma è così. È vero, io non ci vado matto per i gnocchi di patata, sono tra gli gnocchi normali, sì, sì, gli gnocchi di pasta, quelli sì, è ovvio, soprattutto quando ci mette la pancetta a pezzettini, quella a quadrettini, quella che si compra in negozio, fa un sugo buonissimo, per cui, oppure nel sugo ci mette il salsiccione, ci mette e poi condisce la pasta col sugo del salsiccione, no? Buona lì due. Anche, vabbè giuro, ma in cuore io devo salutare che è pronto qua, là. Se Dio non vuole ci sentiamo domani. Ora se la fa entrare presto, non dico alle 3, faccio le 5, 5 e mezza, sono a casa, tanto, capito? D'accordo Luca, a domani allora, dai. Buona cena, ci sentiamo domani, ciao. Grazie per la chiacchieratina, ciao. Ciao anche a te, alla prossima, ciao. Cucciù, alla tua vita, ciao.